sta? Noi siamo qui e voi siete lì, come è giusto che sia ogni giorno a quest'ora, il sacrosanto appuntamento con il test attitudinale. Cumulate punti per la vostra patente da vero rocker. Che vi sarà consegnata? Forse. Udite, udite. Forse. Squillino le trombe, rullino i tamburi. Domenica Questa, a Milano. Allegria. Prima di un incredibile concerto degli Schiantos. Ah, il 30 settembre. Cascinamo lui. Passiamo alle risposte. Parlavamo di Zack Starr, figlio di Ringo Starr. Con chi sta suonando ultimamente? Forse, come ipotizzava l'ipotesi 1, con i Foo Fighters? No, risposta sbagliata, vergogna. E allora forse il figlio di Ringo Starr sta suonando con gli Oasis? Dopo aver suonato anche con gli Who di Pete Townshend? Sì. Effettivamente sta suonando, esatto, con gli Oasis. Hai capito, ragazzi? Per questo che dico che probabilmente se li merita, insomma, per suonare con gli U e con gli Oasis, insomma. Certo, avrà una certa perizia tecnica, ricordando sempre che il bistrattato Ringo il misconosciuto Ringo Starr era comunque per i suoi tempi, sì, molto avanti. Ci aveva il tocco giusto, come si dice in termine tecnico. Smentiamo allora la presenza di Zack Starr nelle file della Toto Cotugno Band. Sia ipotesi strampalata. Sia per quanto riguarda Toto, i Toto, esatto, che per quanto riguarda Mr. Cotugno. È andata, avete azzeccato, avete sbagliato. Pazienza, continuate ad ascoltare, continuate ad impratichirvi, continuate ad acculturarvi dalle frequenze di Rock FM con Pane, Burro e Rock and Roll, la vostra trasmissione di riferimento. Come for me, 8 e 36 minuti primi nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Laila, gli Oasis. Allora, per arricamare sul test attitudinale di quest'oggi, in teoria in questo brano c'era già per l'appunto Zach Starr alla batteria. Il disco si chiamava Don't Believe the Truth, uscito nel 2005. Ringrazio il nostro stagista impagato e impagabile, Isacco, che si è un po' offeso che nei numeri dell'otto è stato abbinato al cacacarte. Era solo per dirla in dialetto, non te la devi prendere. E lo ringrazio perché mi segnala questo riguardo all'entrata appunto di Zach Wilde, del figlio di Ringo Starr, Zach Wilde, buonanotte, di Zach Starr, figlio di Ringo Starr, all'interno degli Oasis. Mi ha divertito molto questa nota che riguarda, appunto, racconta che in questo 2005 i fratelli Gallagher e gli Oasis c'era un po' di maretta, la registrazione di questo album non stava venendo molto bene, quindi alla fine della fiera cacciano Alan White, che era il batterista. Mi piace tantissimo la motivazione. Alan White viene allontanato dal gruppo, il quale lo accusa di scarso interesse nei confronti della band. Cioè, adesso voi immaginatevi il batterista degli Oasis che già deve andare a fare le prove con i fratelli Gallagher, che intendiamoci, tipo, secondo me gli telefonavano: pronto Alan, dai vieni che dobbiamo fare le prove per il disco. No, non c'ho voglia, vado a fare un aperitivo io. Una, due, tre, la quarta lo cacciano. Quindi batteristi all'ascolto, state molto attenti perché potrebbero cacciarvi da un momento all'altro. Ultima mezz'ora di diretta, una marea di messaggi che dovrei leggere. No, Manolo da Milano, non ci risulta che Zach Starr suonasse anche nei Placebo. Auguri di compleanno a Lele, che ne ha 41. Molti che chiedono come facciamo se non possiamo venire a Milano per la patente. Tranquilli, questo ce lo chiede un rocker romagnolo, Morloi, per la patente. Poi inizia un tour. Il tour della patente davvero rocker. Quindi prima o poi vi taneremo tutti quanti. Tenterò di salutarvi tutti al 335-100-7777. Non prima di esserci gustati insieme Shock the Monkey, Peter Gabriel. We'll be right back. Fuck the Monkey, Peter Gabriel, Ariele Spadino e Fricantoni, la squadra di Pane, Burro, Rock and Roll, arrivata alla 17ª puntata, un po' come i 17 anni che invece compirà Rock FM sabato prossimo, con questo grande party che si terrà qui a Milano, al quale siete tutti invitati. Saluti a Sabri in Romagna, Rock FM, l'unica vera radio rock. Il resto è radio rock fighette. Questa la leggo, un saluto dal Chianti, da Bruno, una radioascoltatrice che si firma anonima perché si vergogna. Secondo voi è rock cambiarsi la notte in bagno e mettere l'assorbente al contrario perché sono addormentata? Fortuna che, e lo specifico per i radioascoltatori che non sono non sono dentro questa cosa, e forse non ho usato il termine migliore, l'adesivo è debole, quindi niente ce n'è, niente ceretta. Sì, è molto rock comunque. Ho visto Paz, il film, a Como per la rassegna Fumettando. Che interpretazione, maestro Roberto Fricantoni. Lo sappiamo. Un saluto a questo amico che in auto sta ascoltando però la puntata del 2 di settembre. Va bene lo stesso? Sì, certo che va bene. Le mettiamo su internet apposta. Per essere terribilmente rock dovresti sia ascoltare quella che la diretta, però vabbè, ti perdoniamo. Questo messaggio invece è particolare, lo leggerò a denti stretti, perché i più fedeli lo sanno. Dalla ripresa di Pane, Burro e Rock and Roll siamo agguerriti più che mai. La missione militare pacifica, un po' come i caschi blu, risponde al nome in codice Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà, e partecipano giorno dopo giorno i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici in prima linea, spargendo la voce. Non ascoltate le altre radio, ascoltate solo Pane, Burro e Rock and Roll. È una vera battaglia questa per noi. Però Ivan mi fa una segnalazione che non posso evitare di leggere. Nella battaglia contro tutte le altre emittenti radiofoniche, Ivan mi segnala: guardate che ieri su LifeGate hanno pubblicizzato una vostra prossima serata. Io farei un saluto. Allora, ringraziamo gli amici di LifeGate, ma vi siamo sul collo, amici, ok? È solo una tregua questa, solo per oggi, perché ci avete pubblicizzato la patente da vero rocker. Scherzo, dai. Scegliete liberamente che radio ascoltare, Rock FM. Diablita da Firenze, dai, l'ultimo saluto. Oggi si deciderà il mio futuro lavorativo. Vi prego, dite a Mr. Trombetta di suonare per me. Ok, proseguiamo con la musica. Anche se stavo pensando, io gli amici di LifeGate li saluto volentieri. Però tu, Ivan, che hai sentito che là, di là dicevano questa cosa, un po' una punizione dobbiamo dargliela. La segnalazione era precisa, però lui stava ascoltando un'altra radio. Ti perdoniamo solo se eri fuori ricezione di Rock FM, ok? Per voi, là fuori, e anche per gli amici di LifeGate, questi sono i Doors, Roadhouse Blues, che come suona qui su Rock FM non suona da nessun'altra parte, credetemi. fantasia ciuccio, pocon con cadata, e sciacuna meta, pappa lula li ciao, pappa li ciao, e son con dire. Give up your vows. Save our city. Save our city. Vedo con piacere che anche la notizia che stamane la redazione ha prontamente segnalato tra tutte le notizie possibili e immaginabili è decisamente una bella notizia mattutina. Dunque ringraziamo Isacco, lo stagista staccanovista, per questa nuova informazione, l'occhio sul mondo di pane, burro e rock and roll. Notizie che gli altri mezzi di comunicazione non hanno il coraggio di dare e noi abbiamo l'impudenza di farlo. Molto giusto, molto vero. Del resto una radio rock deve osare. Posso lasciarle il piacere di leggere il titolone della notizia di quest'oggi? Prego, ma maestro. Ma sì, grazie. Sono molto obbligato a Vada buon rendere. Con la grinta giusta, mi raccomando. Ma sì, sentite qua che titolo, radioascoltatori e radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Si fa costruire un secondo pene, ma la moglie non gradisce e lo lascia. Anni fa rimase vittima di un terribile incidente in moto nel quale perse per l'appunto il suo affarino speciale. I chirurghi gli restituirono la serenità ricostruendoglielo con tessuti prelevati dal suo stesso corpo. Plastica. Non ci è dato sapere da dove. Plastica. Non contento però, a distanza di qualche anno, il buon biker Michael Gruber, tedesco di 40 anni, è ritornato dallo specialista per farsi aggiungere un secondo organo più performante. Posso fare una battuta? Deve farla. Presa deve dai farlo. Proverbi. Deve farlo. È sempre la saggezza di pane, burro e rock and roll che parla in me. L'appetito viene mangiando. L'uomo non ha però pensato di informare preventivamente la moglie, che, scoperta la novità, ha ben pensato di darsela a gambe. L'intento di Gruber non era però quello di sorprendere nessuno. Il primo affarino gli era stato lasciato temporaneamente e sarebbe stato rimosso quanto prima. Abbiamo lasciato quello vecchio attaccato, ha spiegato il dottor Markus Köncher, chirurgo che ha eseguito l'intervento, fino a che il nuovo non ricevesse il sangue a sufficienza. Ah, è per questa la motivazione. Adesso si capisce. La signora Gruber, senza alcun riferimento con la celebre giornalista italiana, non ha tuttavia gradito la sorpresa. Dopo una veloce occhiata, ha fatto bagagli e se n'è andata di casa. No, non mi piace questa cosa, perché? Certo, la signora ha detto l'appetito viene mangiando, appunto, no, e il caro marito sta esagerando e chi lo sopporta? Un marito doppio pennuto. Diamo il nostro apporto al quarantenne tedesco Michael Gruber. Noi saremmo rimasti con te. Doppio pene forever. just live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just once again. Maybe tomorrow they come down and take you away. Così, sognanti, Dream On, la meravigliosa Dream On degli Aerosmith, 8 e 57 minuti primi, bravo Spadino, precise e puntuale, questa è la fine, abbiamo un'ultima strombazzata che non posso non fare, Matt, sto per stampare la mia tesi di laurea in ingegneria, Matt stai preciso. Sempre un occhio di riguardo agli studenti che chiedono aiuti a Mister Trombetta. Purtroppo non riesco a salutarvi tutti, ragazzi, ma tenete duro, restate con noi. Andiamo di sigla. Canneburro Rock and Roll tornerà forse domani dalle 7 alle 9 in rigorosa diretta qui su Rock FM. E dove se no? Burro e rock and roll, tracu tracu tracu tra, la tua colazione rock, pane, burro e rock and roll. È andata, ragazzi, e devi curitina. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta rock. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM, che puntuali e precisi a quest'ora, non come Mox Cristadoro che termina. Gravelli, guarda che l'ho tanato Mox, quello termina quando vuole un po' lui, eh. Beh, io gli ho già dato due cartellini gialli in diretta perché è arrivato in ritardo. C'è Maretta nelle redazioni di Rock FM. A questo proposito volevo chiederti, come mai Isacco se n'è andato un po' alterato? Il nostro redattore, è perché abbiamo dato i numeri oggi dell'otto, perché è martedì, e non, volendo fare una tripletta su pane, burro, rock and roll, io mi sono messo come ciarlatano in piazza. E ci sta. Poi ho messo l'artista Fricantoni e poi ho messo 79, il cacacarte. Che? Sarebbe lo scribacchiolo che scrive, insomma. Quindi Isacco. Esatto, il redazionista. L'ha presa male? L'ha presa malissimo. Ha detto cacacarte, non mi sembra l'aggettivo giusto da usare. Ho visto che usciva, se n'è andato. Adesso lo ripigliamo, tanto no, dobbiamo lavorare per la puntata di domani, quindi ne abbiamo ancora di roba da fare. Gravelli, ti mollo i radioascoltatori. Trattameli come al solito. Male, come al solito. No, ma vedi tu no, a te come piace. A me piace trattarli bene. Bene, trattiamoli. Allora, va bene. Oggi vi tratterà bene. Come sempre.